È sempre l'ultimo, quello che fa più male, l'ultimo desiderio da cancellare. E allora è logico, sì, direi normale, che a chi non ti conosce non sai spiegare. Non c'è niente da rispondere, però anche niente da nascondere, almeno a te. Immagino lì a pensare, ma c'è mai stato un modo per non sbagliare e non cadere giù? E giura che mi guarderai lo stesso.